24 mattino. Eccoci qua alle 8:17 minuti, quando uno si dimentica di accendere il microfono non si sente, insomma bisognerebbe partire dall'ABC della radio. L'economia. Soldi e dintorni. La colpa è mia, non è che Carmelo... Vabbè, ma d'altronde stavamo cercando una notizia imperdibile. Ah, Deborah Rosciani, eccoci qua. Sì, buongiorno. No, notizia imperdibile. Cos'è che stavi cercando? Allora, no, visto che il tema di oggi è interessantissimo, e tra l'altro non è piaggeria, ma l'ospite che è già in onda è una delle persone che di una chiarezza esemplare, che quando, insomma, che gode della mia massima stima per come si sa esprimere, tra poco ci spiegherà. Si parla del furto d'identità. Quando io l'ho visto ho detto... Vittime eccellenti. Certo, ma Deborah, ieri sui giornali ci ha scritto che anche la sorella del ministro dell'economia Tremonti ha subito un furto d'identità, tra l'altro dicendo mi hanno rovinato l'esistenza. Adesso magari l'approfondisco, vado a recuperarla. Sì, poi ce la racconti nel corso, intervieni pure quando vuoi. Dal furto del portafoglio al furto d'identità, ovviamente i criminali si attrezzano come possono per danneggiarci, non ci si appropria più indebitamente solo del denaro, ma anche dei dati sensibili nostri, della nostra identità, allo scopo di realizzare prestiti, acquisti di beni al consumo, sottoscrivere contratti, ripulire i risparmi dal conto corrente. Molto più facile di quanto si possa credere rubare i dati personali di un individuo senza che questo se ne accorga. Come? Per esempio raccogliendo informazioni dai documenti cestinati dalla corrispondenza privata o sfruttando ovviamente anche i più sofisticati sistemi di pirateria informatica. Le forze dell'ordine sono in prima fila nella lotta verso crimini di questo tipo, e chi meglio delle Fiamme Gialle stamattina può aiutarci a capire anche come ci possiamo difendere. Io do il benvenuto al nostro ospite, il colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto, comandante del GAT, il nucleo speciale frodi telematiche, un nucleo storico della Guardia di Finanza. Colonnello, buongiorno e grazie di essere a Soldi e Dintorni con noi. Buona giornata a voi e agli ascoltatori. Era informato della della questione della sorella del ministro Tremonti? Purtroppo sì, ma diciamo che è in ottima compagnia, sembra così una sorta di itinerario pseudoturistico dove si viene portati a un museo dell'orrore e ci si accorge che è fatto di specchi, ci stiamo guardando in un lastra di vetro che riflette la nostra immagine e ci fa capire che non siamo i soli, e questo non ci consola affatto, assolutamente. Infatti volevo dare una cifra tanto così per testimoniare il fenomeno di cui stiamo parlando. Abbiamo un osservatorio che in realtà si riferisce alle 2006, e se come per tutte le cose il fenomeno è in crescita, qua insomma la questione statistica ci spaventano un poco. Abbiamo avuto in quell'anno almeno 17.000 casi di furto di credenziali con un importo medio di 5.300 euro eseguiti da cybercriminali sempre più giovani, con un'età compresa addirittura fra i 14 e i 25 anni. Ma prima di arrivare al cybercriminale, colonnello Rapetto, ci può spiegare in realtà qual è proprio la base del furto d'identità? Qual è il pericolo che tutti corriamo? La base, tanto per cominciare, siamo purtroppo noi, perché siamo molto leggeri nel far fotocopiare un nostro documento, nel dichiarare tutti i nostri segreti anagrafici e non. Pensiamo al fenomeno di Facebook, che è diventato un amplificatore di tutte le nostre informazioni. Ne andiamo raccontando giorno durante. E quella è veramente la rete nella quale siamo caduti tutti, colonnello. Ed è una sensazione dove ci si accorge che una dose di esibizionismo può essere letale. Allora che cosa succede? Dovremmo, tanto per cominciare, avere maggiore precauzione, perché è pieno di gente senza scrupoli che ha l'abitudine di collezionare informazioni, siano queste di testo come un dato anagrafico oppure fotografie o altro, per poterle poi riutilizzare in un secondo momento. Basta una fotocopia di un documento su cui si appiccica poi la foto di chi si presenterà un domani con quel documento in una concessionaria auto. E di lì parte un'avventura drammatica, perché magari viene comprato un autoveicolo con il pagamento in contanti di una piccola somma come acconto, e naturalmente tutta la rateizzazione va a cadere sulla schiena del soggetto i cui documenti sono stati presentati. Infatti, tra l'altro, il tema è anche quello, perché voglio dire, se ci rubano il portafoglio ce ne accorgiamo seduta stante nel giro di poche ore. Se ci rubano invece i dati anagrafici, quindi la nostra identità, probabilmente ce ne accorgiamo dopo qualche tempo. Ce ne accorgiamo sempre comunque troppo tardi, dopo che gli eventi si sono verificati e soprattutto dopo che qualcun altro se n'è accorto. Quindi abbiamo addirittura difficoltà a capire qual è stato il tallone d'Achille, qual è stato il momento di nostra distrazione, di nostra debolezza, in cui abbiamo ceduto le informazioni. Può essere addirittura molto lontano nel tempo, perché i nostri dati vengono raccolti e poi spesi con calma. Diciamo che la prudenza che non abbiamo noi, se vogliamo la ritrosia, se avvissene, è estrema. Soprattutto c'è una capillarità nel reimpiego di queste informazioni che non conosce confini geografici, quindi una nostra fotocopia può finire nelle mani di un malintenzionato che, armato di uno scanner, ne fa una copia, tra virgolette, digitale, la trasmette in giro per il mondo e quel documento inizia una corsa senza fine. Infatti, un'altra questione nella quale spesso incappiamo, io ci ho fatto caso, colonnello, le racconto questo episodio perché poi, tra l'altro, preparando questa trasmissione mi è venuta in mente questa vicenda, andando nel cortile del mio condominio, ovviamente ci sono tutti i bidoni della spazzatura perché ricicliamo, c'era quello della carta, apro per buttare le mie cose e ho notato, per esempio, che un mio vicino aveva buttato molti documenti personali dove potevano appunto reperire chiaramente tutte le sue informazioni personali, per cui, a parte il fatto che ci sono molti documenti che vanno conservati perché è bene farlo, ma quantomeno, se proprio dobbiamo buttare via l'estratto conto, quantomeno distruggiamolo. Sì, dovremmo avere la cautela di distruggerlo, soprattutto almeno nelle parti che possono ricondurre davvero alla nostra persona. Questo dovrebbe essere una precauzione da adottare con gli indirizzi o altro. Si rischia di cadere però in una sindrome maniacale, quindi dovremmo cercare di avere equilibrio, di avere, se vogliamo, quella sana dose di diffidenza, se vogliamo, che abbiamo messo nel tempo da parte. Noi, affacciandoci su internet, siamo convinti di incontrare soltanto amici. Quando ci guardiamo attorno siamo convinti che siamo tutti benevolenti dei nostri riguardi. Beh, non è così. Allora, torno a dire, il termine prudenza, su cui insisto, può sembrare una baggianata, invece è quello fondamentale. Avere soprattutto memoria di dove sono state rilasciate le nostre informazioni. Noi abbiamo una legge sulla riservatezza dei dati che impone tutta una serie di vincoli, si è trasformata in qualcosa che ha più un aspetto burocratico che non l'efficacia che il cittadino magari si aspetta, e il cittadino a questo punto deve dare il suo contributo, perché la legge non è che vive da sola, vive Infatti. Anche dell'attenzione nel farla rispettare di volta in volta, non lamentandosi solo quando è troppo tardi. Documentandoci su questa questione mi sono rimaste impresse anche altri due aspetti. La principale categoria professionale colpita dal furto d'identità è quella dei liberi professionisti, avvocati, commercialisti e ingegneri, chissà come mai. E poi gli autori di queste frodi, è vero che generalmente con difficoltà si scoprono? No, non è vero. Ah. Non è vero, si scoprono se intanto comincia l'avventura con una denuncia da parte del malcapitato. Molte volte non si scoprono perché c'è un briciolo di vergogna, essersi fatti scippare l'identità e non semplicemente il portafoglio con la carta d'identità mette in imbarazzo chi dovrebbe essere invece il motore. Noi, in assenza di querele di parte, difficilmente possiamo far scattare tutte quelle dinamiche investigative che invece hanno spesso un successo imponente. Quindi in tempi recenti abbiamo sgominato organizzazioni che avevano la struttura addirittura di impresa, perché si sono accorti che questo è un business fiorente che non richiede grossi strumenti, che chiede soltanto un briciolo di fantasia. Bene, mettiamocela anche noi, perdiamo così l'inibizione che ci impedisce di denunciare, di essere stati poco avveduti, e diamo quindi il là a quella che può essere così una sinfonia reale, perché poi alla fine il successo delle indagini dipende molto da quanto si ha il coraggio di raccontare nella nostra disavventura. E infatti, quindi, attenzione massima a far circolare in maniera disattenta i nostri dati personali, perché oltre al danno economico, come avete sentito, bisogna considerare anche quello emotivo. Infatti Alessandro Milan, la sorella del ministro Tremonti, è distrutta. Sì, no abbiamo scoperto, ha scoperto di avere un conto corrente alla filiale di Ivrea di Banca Intesa a suo nome, che lei non aveva mai, che però voglio dire, ha scoperto di avere un conto in banca. Esatto. No, e si metterà sicuramente nelle mani del colonnello Rapetto. Il tema è molto serio. Colonnello, grazie molte per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, la risentiremo presto volentieri. Grazie a voi. A arrivederci. Allora, Alessandro. alle 12 devo... oggi parliamo di RC Auto, volevo ricordare un altro appuntamento importante, oggi la Banca Centrale Europea si riunisce e sicuramente taglia di nuovo i tassi di interesse in Europa. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle ultime notizie. Un pacchetto di grandi opere cantierabili entro 6 mesi, investimento complessivo per 16,6 miliardi di euro. È la proposta del governo contro la crisi presentata ieri alle parti sociali e che otterrà domani il via libera dal CIPE. Nell'elenco di opere il ponte sullo stretto, la Salerno-Reggio Calabria e la statale Ionica. La cronaca con lo stupro al parco della Caffarella del 14 febbraio. L'impianto accusatorio originale non cambia di una virgola, secondo la procura, nonostante il test del DNA scagioni i due rumeni in carcere per la violenza ai danni di una 14enne. Pur ammettendo che il DNA è la prova regina, ha detto il questore di Roma, crediamo ancora alla bontà dell'impianto accusatorio. Condanna definitiva a 9 anni e mezzo per Vanna Marchi. La Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che condanna anche la figlia Stefania Nobile, il suo ex convivente e il mago Don Asimiento per associazione delinquere e finalizzata alla truffa. Per Vanna Marchi e sua figlia si riapriranno ora le porte del carcere. Infine il calcio. La Sampdoria ha battuto 3-0 l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Gol di Cassano e doppietta di Pazzini. E Mourinho ora se la prende coi suoi. Abbiamo preso gol ridicoli, ha detto. Ora non mi chiederete più perché i giocatori messi in campo stasera non giocano in campionato e in Champions League. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, oggi dedicato a una novità in arrivo dal mondo della scuola. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Una nuova materia verrà introdotta nei cicli scolastici e si chiamerà cittadinanza e legalità. L'iniziativa del ministro dell'istruzione Gelmini, presentata anche con l'intervento del procuratore nazionale antimafia Grasso, è sicuramente apprezzabile. L'educazione civica si è perduta nelle scuole come nella società, purtroppo. Non sappiamo però se capitoli o lezioni della nuova materia saranno riservati a quanto sono costate, in termini di perdita di legalità e indebolimento della cittadinanza, le molte leggi ad personam votate in questi anni, dai governi Berlusconi, l'allentamento delle norme sul falso in bilancio, lo stesso nodo Alfano e lo sciagurato indulto che tanto costò in consensi al governo Prodi. Buona giornata. Grazie, buona giornata direttore. E alle 8:34 minuti 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come avete sentito, insomma, parliamo, come annunciato, dell'inchiesta sullo stupro al Parco della Caffarella. Carlo Bonini, buongiorno, di Repubblica. Carlo Bonini se ne sta occupando. Benvenuto Carlo. Grazie, buongiorno. Oggi perché scrivi: ecco perché i due rumeni resteranno in carcere, nonostante ormai, insomma, da giorni sui giornali si legge il test del DNA li scagioni, quella che è definita la prova regina, non combacia il DNA con loro? Perché in qualche modo la pronuncia del Tribunale del Riesame, che ormai è questione di giorni, il Riesame si riunirà lunedì della prossima settimana, in qualche modo si pronuncerà su un fatto che è stato superato dagli eventi. Mi spiego. La ritrattazione di uno dei due cittadini rumeni, quello che viene, diciamo, in gergo nelle cronache chiamato il biondino, Loios, lo pone in una condizione, diciamo, giuridicamente molto semplice. La sua estraneità alla violenza sessuale automaticamente lo precipita in una, diciamo, accusa a questo punto documentale e documentata di calunnia e di autocalunnia. Perché ha confessato, poi ritrattando. E poi ha detto... Soprattutto perché ha confessato il falso, nel senso, certo, che nel momento in cui il DNA esclude la sua, diciamo, presenza sulla scena del crimine, o comunque esclude la circostanza che lui ne sia l'autore materiale, è evidente che con quella confessione, oltre a calunniare se stesso, Loios ha calunniato anche un altro innocente. E questo ovviamente, come dire, nella situazione in cui questo cittadino rumeno si trova, peraltro lui era già stato condannato in passato e aveva già scontato una pena nel nostro paese per reati minori, per furti, difficilmente, quindi, diciamo, gli consentirà di tornare libero. Stessa situazione vale per l'altro cittadino rumeno, Rax, diciamo, alle cronache noto come cosiddetto pugile, anche lui falsamente accusato, ma dopo il suo arresto, cioè all'indomani del 18 febbraio, riconosciuto dalla vittima di un'altra violenza sessuale, questa volta a Prima Valle, sempre a Roma, e quindi anche per lui, nel momento in cui dovesse cadere e dovesse quindi venir meno la custodia cautelare per l'inchiesta della Caffarella, verosimilmente, anzi molto verosimilmente, probabilmente lui si ritroverebbe di nuovo in carcere per l'altra violenza sessuale. Tra l'altro, io vorrei salutare il senatore Achille Serra, buongiorno senatore, buongiorno, il Partito Democratico, ma insomma anche una vita in polizia, lo sappiamo. Senatore Serra, si dice la prova regina è quella del DNA, eppure la procura, gli inquirenti dicono noi non arretriamo di un centimetro. C'è qualcosa che evidentemente alla persona comune, a me che faccio questo lavoro, dico qualcosa non combacia, insomma, qualcosa di strano suona. Ma vede, io sono anche abbastanza perplesso nel dare dell'innocente a questi due. Evidentemente se la procura dice così, ci sono degli elementi ulteriori che inducono a dire al magistrato in questo modo. Peraltro ho una stima illimitata del capo della mobile, che ha iniziato, non perché ha iniziato i suoi primi passi con me, ma proprio perché lo ritengo un grande funzionario, un grande organizzatore. Vittorio mobile, Rizzi, che è il dottor Rizzi. Sì, ma che è una persona, conosciamo anche noi, una persona, esatto. Una straordinaria persona, validissima, voglio dire. Ecco. Io entro con difficoltà in un'indagine che evidentemente non ho trattato, mi rendo invece conto di quanto l'opinione pubblica, di quanto il mondo di certa politica possa rendere la vita difficile a un investigatore, nel senso di fargli perdere talvolta quella serenità, quella lucidità per affrettare le risposte, per dare dei risultati. E questo l'investigatore non lo fa certamente in malafede, sa quante volte è successo a me durante la mia esperienza, ma lo fa proprio inconsciamente perché pressato e quindi a rischio di perdere la lucidità. Cioè, mi sta dicendo che la politica voleva un colpevole subito da far vedere? No, non la metterei così, credo che non sfugga a nessuno la pressione, anche giusta, perché sono episodi gravissimi e quindi delle risposte indubbiamente vanno date, e vanno date anche velocemente. Il rischio è poi di non avere conferma dalle indagini successive. Io non vorrei che in questa circostanza si fosse dato credito, ma per carità lo dico con le molle, a qualche riconoscimento fotografico che non ha mai dato, se non in pochissime circostanze, esito favorevole. Il riconoscimento fotografico mi ha sempre lasciato molto perplesso, ma ripeto, non entro nel mezzo delle indagini. No, ma questo si vedrà. Io, tra l'altro, siamo innocenti, usciremo dal carcere, così dicono. Uno ha detto andrò via dall'Italia appena possibile, non voglio più avere niente a che fare col vostro paese. Uno invece ha detto no, voglio rimanere qui, io tra l'altro mi avete sempre trattato bene, ho bisogno di mandare i soldi a casa. Lo hanno detto all'onorevole Giancarlo Lehner, che saluto, buongiorno. Buongiorno. La ritroviamo, 3 giorni fa era stata ospite per la questione delle impronte, ma lei ieri è andato in carcere a Regina Coeli a incontrare i due rumeni, è così? Sì, certo. Che impressione le hanno fatto? Ma una sensazione così fisica, ovviamente, questa è una cosa molto empirica. Beh, strutturalmente non hanno proprio il fisico di due violentatori violenti, perché sono molto esili, insomma. Beh, vabbè, però questo... Entrambi non fanno me. Beh, avanti a due ragazzi, no? Di 14 anni, eh? Di 14 anni, insomma, vabbè. Comunque, a parte questa sensazione così empirica da parte mia, io vorrei dire a tutti gli amici che sono là che proprio il delitto che danno un grande allarme sociale sono stati spesso causa di errori giudiziari abnormi. Cioè dire, c'è un nesso stretto tra la indignazione che suscitano certi delitti e poi però spesso fatalmente si va a prendere magari persone sbagliate, no? Questo io direi è una costante. No. Ha avuto sentore che abbiano avuto maltrattamenti? O le hanno detto qualcosa? No. Io li ho visti bene, insomma, senza segni assolutamente in faccia, salvo quello più anziano, diciamo, quello poi accusato proprio di aver commesso il delitto, che aveva una feritina lieve sul sopracciglio destro, ma insomma, sì, ma nulla niente. Di che, insomma, no, niente no. Di che. Ma io un'altra cosa, sì. Però allora vorrei dire, quando io sento PM, questori, quali dicono non arretriamo, eccetera, eccetera, a me viene in mente quel povero babbo a Gravina che, quando ormai era assolutamente chiaro che non aveva assolutamente ucciso i suoi figlioli, eppure anche là ho sentito frasi simili, non arretriamo. deve rimanere in carcere, cioè, bisogna stare attenti a da questo cose. Punto di vista. Carlo Bonini di Repubblica, anche dal punto di vista tuo giornalistico, stride effettivamente questa sicurezza totale della procura, non arretrare di un centimetro di fronte al test del DNA? Cioè, a che punto è l'inchiesta da questo punto di vista? È un, come dire, ci mostriamo forti perché dobbiamo mostrarci forti, ma in realtà tutto andrà a carte 48 oppure no? Ma insomma, io credo che in questa fase le parole della questura, la procura, siano dettate dal fatto che questa vicenda, io oggi poi lo scrivo, questa vicenda è diventata un pochino diversa, un pochino più grande di quella che sarebbe in sé. È diventata una partita infernale in cui, diciamo, si giocano carriere, destini personali, dignità personale, dignità professionale. Quindi questo, come dire, evidentemente toglie serenità, no? Toglie serenità nel giudizio a tutti. Detto questo, è anche vero, e questo lo dico, conosco anch'io da tempo il dottor Rizzi come un eccellente investigatore, che questa vicenda è una vicenda, diciamo, apparentemente come dire, molto semplice, in realtà un pochino meno semplice di quel che sembra. Allora, dato per scontato che il test del DNA scagiona i due cittadini rumeni dall'accusa di essere gli autori materiali di quella violenza, e quindi, diciamo, su questo mi sembra che la prova scientifica è inequivoca, e così dicono gli stessi investigatori. Il problema è che la prova scientifica si ferma qui, cioè la prova scientifica non è in grado di dire altro. Ora, quello che io, per quello che io conosco dell'indagine, la convinzione della Procura della Repubblica, la convinzione della polizia in questo momento è che almeno uno dei due cittadini rumeni, parliamo del biondino, di Lojos, di quello che confessa, ha avuto in qualche modo o parte o, diciamo, ha raccolto direttamente, probabilmente, forse, dall'autore reale della violenza, dall'autore effettivo della violenza, il dettaglio di quella notte. Devo dire che ci sono, diciamo, faccio solo un esempio, non la voglio far lunga, ma c'è una cosa che indubbiamente colpisce. Nella sua confessione, a un certo punto, Lojos racconta, riferisce di come i due ragazzi di 14 anni vengono approcciati all'interno del parco, cioè con quale parola vengono fermati. Quella frase, che si rivelerà esatta, non era mai stata messa a verbale dalla vittima della violenza. Quindi, tanto è vero che dopo la confessione la vittima viene riconvocata in questura per verificare che quello che il biondino ha detto effettivamente corrisponda a verità, e sono esattamente quelle parole. Questo evidentemente non significa che lui è l'autore materiale. No, però almeno è entrato forse in contatto con chi lo è stato l'autore, insomma, c'è, cioè, qualcosa hanno. Io ho 10 secondi, senatore Serra, mi promette che stia 10 secondi, ma quando non c'era la prova del DNA, cioè quando c'era l'indagine vecchio stile, che tanto è stata elogiata anche in questo caso? C'era la sola investigazione che ha fatto dire al capo dell'FBI negli anni passati: voi avete la migliore polizia del mondo. Però non basta l'investigazione da sola, la fantasia, l'inventiva, la professionalità dell'investigatore. Oggi abbiamo anche questi riscontri scientifici, dobbiamo coniugare le due cose. Va bene, io la ringrazio, come ringrazio tutti, Achille Serra, Lener e Carlo Bonini di Repubblica. Le 8:49 minuti, saluto il senatore Sergio Divina della Lega. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi, anche allora, agli ascoltatori. Abbiamo letto che la Lega si ispira a Barack Obama, nel senso, cerchiamo di spiegare. C'è un emendamento proposto da lei, da Rosi Mauro, sempre collega della Lega, che sostanzialmente fissa un tetto massimo, equiparando allo stipendio dei parlamentari, che è 350.000 euro lordi annuali, quello dei manager pubblici. È così sostanzialmente? Non proprio, ma comunque più o meno, no, sono due emendamenti che pongono un tetto agli stipendi del management pubblico e alle dirigenze, alle authority, enti collegati, eccetera, anche società quotate in borsa, se sono comunque partecipate in maniera prevalente dall'azionariato pubblico. Gli emendamenti sono due, perché uno pone come riferimento il parlamentare, il membro del Parlamento, tetto massimo. Un secondo prevede invece 350.000 euro. Quello, il tetto del parlamentare è un tantino più basso comunque. 350.000 euro viceversa si avvicinano molto alla manovra che ha fatto New Deal di Obama in America. E per quello 500.000 dollari, ma a spanne possono essere quasi 400.000 euro, insomma i 350 si avvicinano molto. Come, noi come lo possiamo applicare, diciamo estendere a tutto il settore privato? È un po' il ragionamento che ha fatto Obama. Se vi sono delle aziende in crisi dove è giusto intervenire anche con denaro pubblico, ma questo deve essere speso per una funzione diciamo pubblica, collettiva. Pertanto si vada a salvare la produzione, l'occupazione eccetera e non i super mega stipendi di manager che magari hanno anche dimostrato di non essere il massimo insomma tutti i risultati di bilancio che hanno portato. Cioè per questo si può applicare, voi dite, anche alle banche, laddove ci fosse un intervento, un salvataggio comunque di aiuto pubblico alle banche o a una società, comunque una qualsiasi tutte società privata. Che beneficiano sì in forma tanto diretta quanto indiretta di interventi diciamo pubblici in funzione di anticrisi rientrerebbero in questa fattispecie, pertanto si condizionerebbe il management a questi tetti di redditività. Guardi, lei forse non lo sa, ma noi qui sposiamo incondizionatamente tutte quelle iniziative che vanno in questo senso, cioè cercare di calmierare, insomma, cercare di dare anche un tetto, cercare di contenere i costi. Devo dire, senatore, non è la prima volta che si sente questa, no? Anche oggi il Sole lo ricorda, era stato messo nella finanziaria 2007 il tetto a 750.000 euro, poi 290.000 con la finanziaria 2008 Prodi. Esattamente, però tutto si è sempre un po' così squagliato a livello Sole. E perché stavolta dobbiamo essere ottimisti? Ma io non è che posso garantire che questo sarà un emendamento che arriverà alla fine. Intanto è una base di partenza, mi pare che c'è volontà di ragionare su questo, c'è una volontà, anche perché insomma dopo tutta la sinistra, poniamo il caso, che si è sperticata di lodi e di congratulazioni sulla nuova manovra americana, sul nuovo corso del governo americano, non potrebbe a questo punto impedire una manovra parallela o che va nel segno identico. No, ma come in passato, cioè i 290.000 euro, tutti erano d'accordo, insomma, in teoria. Ma non mi pareva che fossero tutti d'accordo, addirittura fu la maggioranza d'allora che impedì che andasse in porto quell'emendamento, che non so, lo fecero alcuni membri di maggioranza, ma dell'opposizione dell'allora maggioranza. Senta, si può estendere anche alla RAI, le chiedo questo, perché oggi per esempio... Assolutamente sì, ai vertici della RAI. Sì. Non saranno molto felici, credo, i vertici attuali, ma tutto il management pubblico non sarà felice. E per questo dico, magari si opereranno per bloccare, per boicottare questa cosa, insomma. No. Insomma, ci sono 60 milioni di italiani però dall'altra parte, sarebbe un braccio di ferro molto arduo. Mi dica cosa mi voleva dire prima, le dico una cosa, mi ha detto. Sì, che io starei più che sui 350.000 euro sul tetto del parlamentare, perché è anche giusto adesso riprendere e valorizzare queste figure che sono state molto bistrattate, perché rivalorizzando il parlamentare alla fine tu metti al centro e dai dignità a tutto il popolo italiano, perché i parlamentari sono gli amministratori di tutta la nazione. Ponendola in questa chiave, se l'amministratore della nazione ha questo tetto, tutti gli amministratori degli enti collegati interni, le diramazioni burocratiche, si rifanno e si parametrano a questo stipendio. Così si finirà una volta per tutte di dire questo prende troppo, questo prende, diciamo che più di un parlamentare nessuno potrà prendere. E dopo stabiliremo anche qual è il prezzo giusto per indennizzare. Ma oltre a ispirarvi a Obama, insomma al New Deal di Obama, vi ha colpito anche qualche esempio magari negativo del passato che non avete... Ma non c'è dubbio. No. Lei pensi per esempio all'Italia come è finita, insomma non è fallita perché abbiamo deciso di non farla fallire. I manager di Alitalia, partendo da Cimoli, Exo, ricevevano delle indennità annue che superavano i 2.500.000 euro all'anno. Noi possiamo anche accettare che una specie di, chiamiamolo premio di produzione, comunque legato a un risultato d'esercizio, potremmo anche pagare qualcosa in più quei manager bravi che riescono effettivamente a gestire bene le aziende, a rilanciare le aziende occupazionalmente come produzione, sviluppo, che poi sono indotto, che poi sono in posizione per il paese, eccetera, eccetera, eccetera. ma soltanto in questo. Noi abbiamo visto viceversa che le grandi aziende che strapagavano i manager erano quelle che alla fine hanno dovuto avere aiuti pubblici perché sono finite malissimo. Certo. Ecco, non dovremo più arrivare a queste, in queste situazioni. In 10 secondi, senatore, meno male, voglio dire che avete dato il buon esempio bloccando la riduzione dei prezzi alla buvetta al Senato, che il presidente Schifani è intervenuto, ha detto... Ma diciamo che quella è un po' una bufala, nel senso che è cambiata la gestione, i nuovi gestori che hanno preso il servizio hanno rifatto dei prezzi che ritengono remunerativi, questa è la regola. Sì, sulla collettività non pesava, però insomma questo sconto del 20%... No, ma non pesava prima, non pesa neanche adesso, certo che fa clamore pensare che all'esterno paghi un caffè un euro, dentro lo paghi meno di 50 centesimi, mi pare che il differenziale in meno Schifani lo metterà in Beneficenza. Questa lo metterà in beneficenza, è una cosa... poche lire, ma anche un segnalino. Vabbè, anche se... Da questi segnalini magari si fanno dei passi per recuperare grande credibilità. Grazie senatore Sergio Divina, grazie a tutti, Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Tra poco parliamo con l'elefante Giuliano Ferrara, col ministro al welfare Maurizio Sacconi. A domani.